quest'anno finalmente abbiamo avuto il riconoscimento sul settore sia l'ingegnere che con me, ha pubblicato su una rivista americana e io ho pubblicato da poco, non ho dato la notizia, sono contentissimo. Ma Marco, io non fa? Io ho pubblicato lavoro per primo a nome sulla rivista più importante di riabilitazione del mondo, quindi insomma una cosa abbastanza certificata, insomma. Prima ce lo dicevamo solo da noi che stavamo lavorando bene, adesso ce lo dicono anche gli americani, quindi insomma va bene così. Un pochettino, poi vi darò un capitolo di un libro sulla terapia robotica, così cercate di capire anche il background da dove, come dire, viene fuori questa terapia tipo robotica. Cosa vuol dire? Io nel corso proverò più che a, come dire, insegnarvi determinate macchine, determinati dispositivi. La prima cosa, il mio primo obiettivo di questo corso è smontarvi dei luoghi comuni. Ok, che cerchiamo di affrontarli subito, no? Perché, come dire, queste macchine tardano o fanno fatica comunque a essere introdotte nelle palestre? Uno, perché c'è disinformazione. Due, perché costano. E tre, perché sono ancora imprecise. Cioè, si parla di robot, ma comunque il robot non è mai, avete mai visto finora, anche solo per sentito parlare, di un robot che sostituisce interamente l'uomo? No. Cioè in determinate piccole condizioni in cui però i costi sono elevatissimi, no? Ci si hanno messo una persona che sostituisce un robot che sostituisce una persona ad aggiustare i pannelli solari nelle missioni spaziali, hanno costruito dei robot che si addentrano nelle caverne dove l'uomo non è, però cioè non è. Obiettivo della terapia con assistenza robotica non è mai e non sarà mai quello di sostituire il fisioterapista. È impossibile, è impensabile ed è assurdo. Ok? Casomai sarà quello di assistere, no? Si chiama terapia con assistenza robotica, non si chiama mai terapia robotica. Sarà quello di assistere il fisioterapista in ogni passaggio della riabilitazione che il fisioterapista decide, ok? E delega determinati compiti gravosi per lui a robot. Quindi ogni forma di robot, in ogni forma di terapia, anche quando, questo però io non ve lo dico come lo sto dicendo, come dire, vabbè, mi sembra una cosa banale, mi sembra un concetto banale, ma se lo capite voi non è. Cioè io mi trovo a dei congressi internazionali dove ci sta il neurologo di 50 anni che parla ancora di questi concetti, come se la terapia robotica fosse equivalente alla terapia del fisioterapista. No, proprio sbagliato, non è questo qua che è lo scopo. Cioè per il momento innanzitutto è un add-on, è un in più. Ma quando anche sarà solo questa, non sarà mai da sola, sarà sempre il fisioterapista a gestire questo strumento. Quindi questo qua è tutti i robot che ci saranno, per quanto con un'intelligenza a bordo, non so, forse già ne abbiamo parlato noi della differenza di dispositivi elettromeccanici robot mai, no, per quanto abbia un'intelligenza a bordo non sostituirà mai il vostro sapere, la vostra intelligenza, il vostro status essere fisioterapista. È un bastone. Il bastone com'è? Una mazza semplice. Un robot com'è? Un bastone più sofisticato. Ok? Quindi uno strumento. Questo qui voi chiedete a 100 terapisti della Fondazione Santa Lucia con più di 30 anni addosso e gli dite: loro guardano il robot come sostitutivo della loro terapia, in competizione. No. È come la vostra fidanzata che si mette in conflitto per gli uomini in competizione col tonton. Che non lo comporta, è la stessa cosa, sono due cose diverse. Okay. Era una battuta idiota, eh? No, non so. Ma condicio una donna può dire un esempio stupido di competizione del mondo. Non risponde. Sarebbe interessante però fare degli esperimenti su dove ci porta il tonton mentre una fidanzata, eh? Sarebbe interessante fare degli esperimenti su dove si arriva con una donna a fare una battuta sull'equivalente di banale di competizione del mondo. Forse è meglio la fidanzata, anzi forse oppure non so, il fidanzato si mette in competizione con il pubblico sulla bellezza, vabbè. Quindi bisogna cercare di capire da dove arriva l'esigenza di tutta questa tecnologia della riabilitazione. Poi c'è un altro aspetto, no? Cioè, io credo che in una università sia doveroso insegnarlo, anche perché queste macchine non è che uno sceglie nella vita, è un po' come il computer. Cioè, i nostri genitori dicevano, ma a me, i nostri nonni, non i genitori, perché ormai i genitori sono tutti abili arruolati nella tecnologia, però i nostri dicevano, ah no, a me non mi interessa questa cosa. Cioè, è una questione che c'è e bisogna prenderla in considerazione. Poi uno può decidere il grado di aiuto di cui servissi di queste macchine, ma ormai tipo i robot per la deambulazione, che sono quelli più difficoltosi, più costosi, più grandi da gestire all'interno di spazi riabilitativi, sono, se andate in un centro, non dico di eccellenza come Santa Rita, ma di media eccellenza ce ne sono sempre. E il terapista che sa cos'è, quando usarlo, perché usarlo, non dico come usarlo, ha un vantaggio selettivo, parlando in maniera darwiniana, sugli altri. Ok? Perché quindi bisognerà farne i conti. Scusi, si sente dire che sono passi da gigante, l'hanno fatto recentemente la tecnologia robotica micro miniaturizzata, cioè quella relativa alle, quindi i micro robot prodotti con la tecnica, adesso non ricordo, con la tecnica, diciamo, le nanotecnologie, quello che riferivo. Quelle, per esempio, dal punto di vista, appunto, siccome parliamo poi alla fine di interventi di tipo meccanico strutturale, no? Più delle volte, diciamo, dal punto di vista riabilitativo, quelli, per esempio, sono mai stati, come dire, c'è mai stato qualche tentativo di studio di utilizzo di quel tipo di robot, quindi non roba grossa ma roba super piccola. E che cosa dovrebbe servire, scusa? No, non lo so, un'idea, magari la stimolazione tendinea, piuttosto che la riparazione di certi distretti, o piuttosto che certe azioni. No, quello viene utilizzato quel tipo di tecnologia come dire, integrata in un complesso più grande, cioè si serve di quella tecnologia, però a livello microscopico, all'interno del corpo, cioè, ci sono delle applicazioni fondamentalmente a livello, anche perché dobbiamo distinguere, cioè la ricerca, no? Siamo comunque un pochettino tutti del settore, poi siete all'università, ragazzi, un po' d'attenzione. Dobbiamo distinguere, cioè non è come il familiare di un paziente che ha 75 anni e mi dice questa è ricerca, come per dire, sono cose che non interessano a me clinico. No, cioè la ricerca è fatta di gradini, ok? Ci sta la ricerca sperimentale di neurofisiologia, in cui nei topi si vedono le connessioni nervose e la plasticità cerebrale, come si modifica quando un robot gli fa fare l'esercizio al topolino. Quella non interessa al paziente, c'è un gap di 20-30 anni, anche 100 prima, adesso si è un po' accorciato, siamo tra i 15 e i 30 anni. Dopodiché si passa a una ricerca clinica di base, in cui si cerca di costruire queste macchine, si sperimentano, si fanno così. Dopo 10 anni si passa di ricerca clinica, si parla. Noi parliamo di ricerca clinica, cose che sono già state validate, hanno già trovato una sorta di utilità, e noi cerchiamo di aggiungere maggiori dettagli. Cioè, a questo elemento diciamo come, perché, quando, quante volte. Siamo in questa fase, quindi si chiama ricerca clinica, cioè noi lo sperimentiamo direttamente sui pazienti, cioè cerchiamo di capire, già sappiamo che già ci sono tutti i presupposti per sapere che fa bene, però noi quantifichiamo quanto bene fa in termini scientifici, come con anche degli elementi di statistica, tipo odds ratio, probabilità di ritornare a una deambulazione autonoma, oppure need, cioè persone necessarie a trattare con questa macchina affinché una torni a camminare in maniera autonoma, cioè cerchiamo di quantificare questi numeri. Dunque, per quanto riguarda in generale un pochettino poi la robotica o l'ingresso di quelle che sono in generale le nuove tecnologie nel mondo della riabilitazione, cioè il mondo della riabilitazione viene tra virgolette non aggredita, però cioè si mischia questi campi di nuove tecnologie da vari aspetti, non da uno solo. Questi qui che guardiamo, per esempio, questo è l'aggeggio per la deambulazione, anche abbastanza rudimentale, no? E si parla di assistive device, cioè aggeggi che assistono, dispositivi elettromeccanici, adesso vedremo la differenza, che assistono un movimento. Quindi voi cercate di riabilitare uno, l'unità pensante non c'era la macchina, ce l'avete voi. Ok, voi come parte dell'equipe, quindi indicazione, sedute, quante, a che modo, in che modo, eccetera. Poi vedremo come l'interazione vostra è molto molto maggiore e per quello dico lo scopo è cercare di capire che questo qua è un bastone più sofisticato, in persone che col bastone non possono camminare. Come il Locomat, come tutte le apparecchiature per l'arto superiore che poi vedremo, sono tutte assistive device, ok? Quindi assistono nel movimento. È come un Kinetec, è come un Kinetec più sofisticato, va bene? Poi ci sta un altro aspetto della tecnologia, che non è quello lì dell'assistive device, ma ce ne sono diversi, adesso mi viene in mente questo qui, è quello lì per esempio della realtà aumentata, no? Ci sono vari settori della riabilitazione che va verso, si chiamano in inglese, perdonatemi per la pronuncia, enriched environment, no? Cioè proprio degli ambienti arricchiti, proprio per recupero motorio, soprattutto a seguito di patologie neurologiche, si cerca di creare un ambiente virtuale arricchito, ok? Che sia funzionale alla neuroplasticità e quindi al recupero. Questo perché si è creato questo filone e questa cosa? Perché si è visto negli ultimi 20 anni che tutto quanto si credeva e si pensava della neuroplasticità fosse, come dire, è stato abbastanza stravolto da nuove tecniche di imaging che sono state scoperte, inventate e messe a punto per valutare la funzionalità del sistema nervoso centrale, no? Sapete poi la risonanza magnetica funzionale, qui è pieno di volantini, di persone che studiano, ormai si è in grado di vedere tutto, cioè si mette una persona sana a vedere delle piante e si capisce quali aree vengono coinvolte, si mette a fare un compito, cioè si riesce a mappare funzionalmente l'encefalo e si è passato da una visione statico-gerarchica dell'encefalo in cui ogni area diversa si occupava di un compito e aveva una gerarchia, quindi demandava ad altro qualcosa oppure dipendeva da un'altra, ok? Quindi c'era il midollo, le aree sottocorticali, la corteccia, questa era l'area gerarchica. Adesso questi modi di vedere l'encefalo si sono un po' più modificate verso una teoria di mappe mobili funzionali, ok? Quindi delle reti neuronali che non sono così statiche, perché qual era il punto negativo debole della prima visione? Era quella della staticità e del confine, ok? Cioè questa mattonella si occupa dell'arto inferiore, nel momento in cui ho un ictus e questa mattonella fatta di neuroni non c'è più, cosa succede? Niente, è finita quella funzione, è morta? No, in realtà non era solo questa mattonella, ma era questa mattonella che era sparsa qua, là, qua, insomma c'aveva una rete funzionale. Nel momento in cui questa mattonella viene a mancare, il cervello subito shifta questa mattonella verso quest'altra mattonella che prima si occupava di muovere il gomito, adesso si occuperà di muovere il gomito e la mano. Non lo saprà fare, non lo potrà fare come prima, ok? Come lo faceva quella mattonella che era nata per quella cosa, ma ci si, come dire, impegnerà e adeguerà e modificherà parzialmente le sue caratteristiche per poterlo fare. Questa mattonella non è intesa come un'altra unità funzionale, ma un'altra rete, quindi si creerà una nuova rete. La capacità di creare un nuovo network all'interno dei neuroni e dell'encefalo, ragazzi, è detta plasticità cerebrale, ok? E questa è la componente fondamentale del recupero della riabilitazione, perché noi, cioè quando un paziente recupera, stiamo parlando per lo più di paziente con una lesione neurologica, tipo un ictus, perché è quello più evidente, lì c'è una funzione, ictus, si perde la funzione, c'è il recupero. Quindi è qui che questa curva di risalita verso un ripristino della funzione, quindi il re-learning, learning e apprendere, re-learning e riapprendere, learning perché già ce l'avevo questa funzione, muovevo già la mano, non la muovo più, re-learning, imparo a rimuoverla, ok? È più evidente, ma questo concetto di neuroplasticità, quindi qua dove in questo breve spazio si risale, noi lo riusciamo a intercettare meglio, ma perché siamo ancora noi troppo piccoli rispetto alla grandezza dei processi e dei fenomeni della natura, ma sono cose che avvengono costantemente e quotidianamente, nel momento che stiamo qua, il mio cervello sta cambiando perché vi sto dicendo delle cose e voi reagite in un modo, il vostro cervello sta cambiando, si creano delle nuove reti perché io vi sto dicendo delle cose. È un processo che avviene sempre. Ci sono degli indicatori quando un bambino è piccolo e adolescente, quindi minore è l'età, maggiore è la capacità di creare queste connessioni, di rinforzarle, di creare ex novo e di sviluppare proprio neuroni in quel senso. Andando avanti con l'età questa capacità si riduce, ma anche negli anziani, a seguito di una lesione c'è questa capacità. Dipende dall'età, una persona di 17 anni che non è mai augurabile, ma purtroppo ci sono, ha una capacità, una probabilità di recupera molto molto maggiore di una persona che ha 80 anni, proprio per questa capacità di neuroplasticità. Così come sono venuti fuori da esperimenti fatti sulla neuroplasticità determinati altre argomentazioni, oltre a capire che esiste questa neuroplasticità anche nei soggetti sani e non con una lesione cerebrale, si è capito anche un pochettino cosa è che la modifica, ok? Quindi, parliamo prima del sano. Nel sano c'è la neuroplasticità? Sì. Da che cosa lo sappiamo? Beh, per esempio, le persone che leggono il braille, quindi che leggono il linguaggio braille, loro hanno un'area somatosensorale deputata alla identificazione e alla discriminazione tattile 10-20 volte maggiore che nelle persone sane. Quindi quella stessa persona che non aveva un'area del linguaggio sviluppata come noi diversamente abili, per usare un termine political correct, quindi non ha quell'area del linguaggio così sviluppata, ma ha l'area somatosensoriale per leggere il braille molto più sviluppata di noi. Noi a passare la mano su quelle scritte in braille, per me non sono delle cose che possono dare fastidio, solletico o altro. Per quelle persone sono una identificazione del linguaggio. Quella persona ha riadattato il suo network comunicativo encefalico in maniera funzionale per lui e per l'ambiente. Quindi tre cose: proprio caratteristica, l'ambiente conta, perché con braille anche i rilievi fanno parte dell'ambiente, no? Cioè più stimolazioni ha o dall'ambiente più vado in quel senso. Se quella persona magari non aveva la possibilità di comunicare con l'area del linguaggio, ma nessuno gli metteva il braille, quell'area somatosensoriale non sarebbe mai venuta fuori, no? Quindi è un mix di due cose, di un evento, una predisposizione propria, e l'ambiente è qualcuno che gli fornisce quello stimolo. Avete capito? Pensate a voi al fatto di fornirgli un testo in braille da poter decifrare, imparare, apprendere e perfezionarsi, come la vostra terapia riabilitativa che date a un paziente che ha una funzione, l'ha perduta e in questo tempo la deve riapprendere, relearning, no? In questo tempo, come dire, ogni singolo momento è uguale? La domanda è, cioè tipo, se io faccio una curva così, no? Qua c'è la funzione, poi c'è l'evento, stroke, no? Stroke in inglese cosa vuol dire? Proprio vuol dire improvviso, no? Cioè, lo sappiamo, però vuol dire proprio improvviso, no? Colpo. Qui colpo, bravo, esatto, cosa dire? Quindi, nel momento in cui io metto, qua ci sta la funzione, e qua ci sta il tempo, ok? Nel momento in cui io ho qui settimane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, settimane, no? Week. Quindi qua fa così la funzione, no? A questo colpo crolla, arriva a zero, la perde. Mettiamo che stiamo parlando del grasping, ok? Dopodiché cosa fa? Piano piano farò così. La domanda è, queste settimane, la prima settimana è uguale alla settima settimana? No. Perché? Perché il tempo è un fattore determinante nelle potenzialità del recupero. In questa prima settimana io posso recuperare, guardate qua, posso recuperare di questa altezza qua, sono nella parte esponenziale della curva, ok? Quindi in quella settimana, se voi mettete come funzione il grasping, mettete tipo forza al mobility index qui, no? Qui posso recuperare 10 punti di motricity index. Qua l'importante è particolare, sofisticata e che faccia la riabilitazione, potrò recuperare potenzialmente meno che nella prima, ok? Anche se sto con l'equip riabilitativo che ha vinto l'Olimpiadi, ragazzi. Mi state a seguire? È semplice, no? Il tempo è un fattore determinante. Lo sapevano prima? Sì, lo applicavano lo tenevano in considerazione nelle tecniche rieducative che hanno messo in atto? Ni, no? E ni, perché? Che insomma ce ne vogliono dire comunque i coniugi Bobat, che comunque erano stati lungimiranti, avveniristici, futuristici e veramente da Nobel, comunque si erano più preoccupati in questa prima fase di parare, di preservare dalla motricità, come dire, quella lì negativa, piuttosto che cercare di agevolare un nuovo networking che si deve creare, o no? Cosa insegna Bobat? Evitare che si instaurino gli schemi motori alterati, giusto? Domanda è: cosa facciamo affinché si possano generare quegli muovi in questa fase che precoce ed è così importante? Questo rimane un po' il dubbio e il punto scuro, ma non è, cioè la terapia robotica non è una contrapposizione con la terapia convenzionale, è un add-on, quella cosa lì è importante, ma serve anche un pochettino di più, anche perché i risultati della riabilitazione neurologica a seguito di ictus sono molto importanti, ma non sono una cosa allucinante. Questo vi faccio vedere. Dopo 6 mesi da un ictus, cioè è chiaro che negli ospedali noi riabilitatori non siamo, no? Cioè abbiamo la bacchetta magica, altrimenti il paziente deve andare dal mago d'arcella. Noi ci sono degli indicatori, però i dati adesso, attualmente, cioè, come dire, la fonte ufficiale più importante dice che il 60% è autonomo dopo un ictus. E soltanto dopo 6 mesi il 18% delle persone che hanno un ictus, quindi 18 su 100, è in grado di uscire da solo fuori casa e andare a comprare il giornale. Voi mi dite, ma è un ictus? Io vi rispondo, sì, ma siamo nel 2011. Ok? Quindi questo dato, secondo me, non è abbastanza. E non lo dico solo io, lo dice tutta la riabilitazione mondiale, no? Ma questo poi, è chiaro che questo dato è il più alto, quindi si può arrivare, è una forbice, no? Tra il 2% dell'ospedale di Martina Franca, Valmontone, eccetera, eccetera, piuttosto che l'ospedale Santa Lucia o altri ospedali di eccellenza dove insomma si dedicati a un tipo di patologia. Quindi è una forbice che varierà dal 10 al 30%. Per qualche, ragazzi, se ci avete delle cose da dire, ditelo, perché, cioè, nel senso che è carino il dibattito e il dialogo. Questo è quello che succede a casa nostra, così ci sono 500 pazienti ischemici che aveva messo appunto Paolucci, cioè trovare 500 trattati nell'arco di un decennio non è una cosa banale, sono grossi grossi numeri che si avvicinano a una fotografia della realtà. Ci sono qui chiaramente solo gli ischemici, mancano gli emorragici, sapete bene che gli emorragici recuperano peggio o meglio? Meglio. Hanno una più alta mortalità all'inizio, cioè quando uno viene una emorragia ha il 20% di decesso, però se sopravvive ha un recupero più migliore, ok? Non avete fatto riabilitazione neurologica, neurologia? No, neurologia. Lo parla adesso? In questo semestre, ok. Quindi insomma andiamo un po' di pari passo. Qua insomma chiaramente si parla di ictus, è un evento acuto, come dire, l'occlusione di un'arteria cerebrale oppure la rottura e quindi l'emorragia, tale per cui si genera una morte cerebrale in quell'area, si crea un edema attorno, ok? Questo edema può dare compressione, quindi inibire la funzione anche dell'area intorno. Mettiamo per esempio, no? Possibile, ci stanno queste cose. Non sono molto bravo a disegnare. Mettiamo che ci sta una ischemia frontoparietale, no? Quindi ci sta quest'area qua che sarà completamente danneggiata. Il vaso che arriva da sotto dalle carotidi, che poi si biforca, eccetera, qua è stato ostruito da un embolo o da una placca arteriosclerotica. Tutta questa zona irrorata da quest'area, ok? Ci sono anche dei circoli di compenso, per dire dall'altra carotide, dalla oftalmica, provano a cercare di irrorare quell'area, però non è sempre così facile quando questi circoli di compenso vengono a mancare, oppure in alcuni momenti, sapete, si chiama circolo dei Willis, tutta la circolazione cerebrale, quest'area può andare in ischemia. Andate in ischemia quest'area, si produce qui un edema, cioè un trasudato di liquido, che comprime anche quest'area qui, ok? Parietale. Quindi non solo è inibita quest'area perché sta è definitivamente, come dire, cerebralmente morta, ma anche quest'area che ha edema, e si vede bene la risonanza magnetica, è inibita nelle loro funzioni. Quindi il paziente si troverà in quel momento, siamo per dire a 24 ore dallo stroke, il paziente si trova in stroke unit, è allettato, non parla, ha la faccia completamente con un deficit facciale importante, non muove il braccio e non muove la gamba. Plegia totale. Ok? Mettiamo che sia un sinistro, non parla neanche, quindi deficit destro e non parla. Cosa succede? Che a seguito delle cure mediche che gli danno, nella prima parte che è importantissima lì, già nelle stroke unit, se lo sapete, il modo moderno di trattare lo stroke è quello chiaramente di non farlo andare nella medicina interna dove ci sono quelli operati di appendicite, no, in strutture dedicate che si chiamano stroke unit, dove ci sono i monitor e dove nel primo giorno il terapista si presenta lì. Cosa fa la riabilitazione? Inizia, fa la presa in carico, posiziona il paziente, lo rieduca già alla posizione seduta, quindi proprio già dalla prima giornata, quando sempre, no, se il medico gli dice puoi andare, perché chiaramente se sta in pericolo di vita, perché ha un'aritmia, perché questo è un embolo per il cuore che insomma sta soffrendo di un'aritmia, prima bisogna pensare a non farlo morire chiaramente, poi dopo si pensa alla riabilitazione. Però quello, senza perderci e dilungarci, che cosa vi voglio dire? Che questa parte del recupero, quindi questa prima settimana qua, in cui il paziente recupera praticamente un terzo più di quello che potrebbe recuperare, non è merito né mio di fisiatra né vostro di fisioterapista, è merito di questo edema che viene riassorbito. Si riassorbe quest'edema, quest'area che non era morta, riprende le funzioni e il paziente in quinta giornata muove la spalla debole, muove il gomito, accenna un po' il movimento, sapete che nella prima parte del deficit neurologico c'è flaccidità e non spasticità, insomma, come dire, inizia a controllare il tronco, già in quarta quinta giornata uno dice, beh, tutto sommato ci sono, è molto grave, una patologia grave, però c'è per comunicazione ai parenti, no? Però ci sono probabilità che insomma si possa migliorare, perché comunque già ha recuperato un po' il tronco, quindi qua segno che l'area della lesione è un po' più piccola di quella che sembrava all'inizio, no? Quindi questo qui è l'edema. Dopo una settimana che gli effetti dell'edema comunque si sono ridotti, questo ve lo vedete meglio nei corsi di neurologia, riabilitative di neurologia, inizia il momento del recupero, ok? Vero e proprio, dove lì c'è quella questione della neuroplasticità, che è quella che dicevamo, dobbiamo quell'area morta sostituirla con un network di reti che sofferiscano alla funzione di quella mattonella che non c'è più. Ok? e lì proprio si innesta la nostra levitazione, mentre prima c'era lo stesso, ma come dire, pensare, ipotizzare e dire che merito della riabilitazione quello che è stato fatto mi sembra quantomeno scorretto e azzardato, no? Perché la natura sta facendo il suo corso, anche dopo la natura fa il suo corso, però è un gioco di squadra in cui c'entra il recupero naturale, il fisioterapista e il fisiatra, cioè l'equipe, diciamo, fisioterapista e fisiatra, no? Giochiamo tutti nella stessa squadra contro la menomazione. Qua la parte più importante non la facciamo noi, ma la fa il recupero naturale e i farmaci che il neurologo dà, tipo il magnetolo, che possono assorbire quest'edema, ma non so, no? Se c'è l'emorragia l'edema è ancora più marcato, il magnetolo è necessario. E il fisioterapista cosa fa? Previene in quella fase o inizia già a aiutare se l'edema si è tolto, quindi inizia già la fase di riabilitazione. Previene come? Previene posture scorrette, piaghe da decubito, atteggiamenti viziati, già che si innestino dal primo momento. Inizia la fase da seduto, perché se il paziente rimane a letto per 10 giorni, metterlo seduto dopo sarà una complicanza, sarà insomma una cosa impegnativa per l'ipotensione ortostatica e tanti altri fatti. Dopodiché inizia, mettiamo dalla seconda settimana in poi, questo aspetto della neuroriabilitazione che comunque diventa sempre più importante, come dire, quanto possiamo fare noi è sempre meno importante di quanto può fare la neuroplasticità, ok? Quindi voi, dopo questa prima settimana, pensate qui dalla seconda e terza in poi anche a un bivio o due modi di fare riabilitazione che corrono paralleli. Il primo è cercare di ricreare quella funzione così come era prima, quindi il grasping, oppure in una fase molto più tardiva cercare di recuperare quella funzione adattando l'ambiente o parti della persona, ok? Ci siete? Avete capito questa differenza? Un po' contorta. Soprattutto nel cronico sto parlando, no? Quando voi, il secondo aspetto che vi dicevo era quello lì di, come dire, si chiama motor substitution in inglese. Cioè io sostituisco, e anche con della riabilitazione, cioè nella prima fase fa la natura, nella seconda fase cerchiamo di fare noi la natura, motor relearning, parliamo di motor, non parliamo di cognitivo, di altro, parliamo di funzioni motorie, che per l'alto inferiore sono la deambulazione e per l'alto superiore sono il reaching e il grasping. Quando parliamo di recupero, a noi ci sta interessando, per le lezioni che fate con me, è sempre quello. Ok, questo concetto vale per il cognitivo, per la prassia, ma non ci interessa poco, altrimenti facciamo confusione. Quindi parliamo dell'arto superiore di grasping, presa, ok? Abbiamo parlato in questa prima fase di re-learning, cioè re-apprendimento. Io lo sapevo fare, chiudere la mano, prendere gli oggetti, non lo so fare più, lo devo riapprendere. Come? Con la mia mano, quindi io cerco una via corticale che mi comandi i miei muscoli per fare così, ma quando sono arrivato troppo nel cronico e non ho più questa funzione e non ce la posso più fare, ok, devo attuare un'altra strategia riabilitativa che è la motor substitution, cioè io sostituisco, cioè, tanto non è tanto, sono cose diverse, è chiaro, il mio obiettivo è sempre prendere il telefonino e cercare di chiamare, ok? Se non lo posso fare più con la mia mano, mi oriento con l'assistenza della tecnologia. Non so se sono un midollare di una lesione cervicale alta, ok? Che, come dire, o parzialmente o i flessori, ma non gli estensori, il chirurgo mi fa una trasposizione per cercare di aprirmi la mano, perché l'apertura della mano è funzionale al grasping poi, capito? Cioè, quello lì che cos'è? Un recupero motorio? Cioè, sì, stiamo facendo chiaramente riabilitazione, però stiamo sostituendo una funzione con il muscolo con un altro muscolo, oppure nel momento in cui io mi adeguo con la domotica per cercare di sopperire alle mie abilità che sono diminuite, quella lì fa parte di un altro settore. non è prettamente quella di cui ci occupiamo adesso, perché noi lavoriamo per lo più nel paziente subacuto, quindi siamo ancora in queste settimane, diciamo fino alla nona settimana, quindi fino a meno male 3-4 mesi, in letteratura si considera un dato neurologico subacuto, fino a 15 giorni acuto, fino a 3 mesi, ricordatevi questi numeri, fino a 3 mesi subacuto, da 3 mesi in poi inizia un pochettino la fase cronica. Che vuol dire nella fase cronica? Che non si recupera più? No, si recupera. Meno si recupera. La riabilitazione serve, certo che serve, perché un danno neurologico serve per prevenire le complicanze, serve per mantenere la funzione appresa e il livello funzionale appreso, e comunque la neuroplasticità c'è sempre, c'è nel sano, figuriamoci tutta la vita, figuriamoci se non c'è in quel paziente anziano recuperato. Ok? Quando di che entità è? Quindi arriva un paziente che ha un ictus da 12 mesi, non muove la mano, viene da voi, cioè io vorrei muovere questa mano, come fanno tutti, no? Voi pensate che in un giro di 15 giorni fate muovere la mano? No, chiaro, no? Quindi siamo in quella parte di curva in cui si avvicina al massimo possibile, ok? Che non è la funzione di prima, è il massimo possibile. Con un asintoto si ci avvicina, ma diciamo che non lo tocca mai, o lo tocca, insomma, se abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo previsti. Ok? Quindi, primo aspetto. Timing, quando è che si deve fare la riabilitazione? Il prima possibile. Ok? Secondo concetto, quanta se ne deve fare? Terzo concetto, che modo si deve fare? Questi tre concetti hanno un pochettino quanto di più nuovo e rivoluzionario ci sta nella riabilitazione negli ultimi 10 anni, un pochettino quando Galileo dicevano chi sta in mezzo, il sole, la terra, un pochettino così. E quanto di più, cioè trovare delle evidenze di riabilitazione non è una cosa semplice, cioè dire la TECAR è più efficace della TENS, perché ci sono proprio delle realtà oggettive di difficoltà nell'indagare determinati fenomeni. In cui mentre che io misuro altero, nel mentre in cui io faccio non posso dire all'altro non ti sto facendo la TECA o non posso dirlo a me, quindi non riesco a misurare il fenomeno in una maniera settica, mentre per la farmacologia è diverso, perché io do a te la pillola blu, a te la pillola rossa e vedo che cosa fa, solo l'altro lo sa che cosa c'è dentro, capito? Nella riabilitazione è un po' più complicato per fare questa cosa, fare il cieco, il doppio cieco, eccetera, la randomizzazione, eccetera. Dico, quanta attiene al problema, diciamo, se poi, intensità, cioè nel senso se poi diciamo dire, raggiungere quella quantità giusta che va verso l'obiettivo ma non produce effetti poi indesiderati. È chiaro, assolutamente sì. Ah, anche perché vi dico due cose riguardo questa neuroplasticità. Quindi ogni cosa che si fa è buona, più si stimola meglio è? No. C'è una neuroplasticità positiva e una negativa, quindi il quanto e il come sono importanti, no? Quindi cioè, non è da vedere solo come fenomeno positivo, cioè, si creano delle nuove connessioni, sì, ma devono essere finalizzate, funzionali, quindi il problema del come, di che natura siano e di che qualità siano è fondamentale, fondamentale. Qualcuno l'ha risolto per il momento, ci stanno lavorando, ma non è mica una cosa, cioè non è mica una cosa semplice. Se voi sentite una relazione per esempio di Molinari, che si occupa tantissimo di neuroplasticità non solo nel cerebellare nei congressi internazionali, vi rendete conto che la strada da fare è tanta, che tanto tantissimo si sa rispetto a 10-15 anni fa, ma è assolutamente affascinante il campo. Vi volevo dire una piccola parentesi adesso, guardate anche su tipo su Wikipedia, su qualsiasi, cioè nel senso definizione, cos'è un dispositivo, cos'è un dispositivo elettromeccanico e cos'è un robot. Proviamo a dare delle definizioni, no? Delle cose che uno ormai sa, il continuo, le sente, le dice, siamo nel 2011, eccetera, però non è così semplice. Chiaritevi queste cose che sono importanti. Che cos'è secondo voi un dispositivo meccanico? Un bastone che offre, come dire, che sfrutta delle proprietà meccaniche per una determinata finalità. Il bastone canadese può essere per la mola di Godzilla, un dispositivo meccanico, un dispositivo e basta. Un dispositivo elettromeccanico. Kinetec, che c'ha oltre alla meccanica, c'ha anche un qualcosa che ha a che fare con un circuito elettrico. Quello là che vi ho fatto vedere, il trainer, che cos'è? La triangolazione del cammino. Sì, per la triangolazione che cos'è? Dipende, c'è una centralina. Dispositivo elettromeccanico. Dipende, se è una centralina programmabile, no? Cos'è una centralina programmabile? Cioè, nel senso, se sei integrato un discorso di elettronica, di programmi, algoritmi, lì subentra un discorso un po'. Che vuol dire algoritmo? L'algoritmo è una procedura. Del pazzesco che ti ha dato la è quello lì che fa la differenza. Tu puoi dare un algoritmo, cioè dire se succede questo, cioè nel senso, capito, però come dire, l'algoritmo può essere anche sofisticato ma afferire sempre all'elettronica, nel senso, come dire, un computer, no? Io do e lui in base a quello che dico, non il computer, l'esempio sbagliato è la capacità, la differenza tra robot e dispositivo elettromeccanico è la capacità di avere un'intelligenza a bordo tale per cui il robot modula la risposta. Perché interagisce col soggetto. Sì, sì, sì. Ma non sotto comando di un terzo soggetto che lo comanda. Di per sé lui ha una unità di intelligenza a bordo tale che modifica. Ti faccio l'esempio, quello lì, tutti, anche noi all'inizio lo chiamavamo robot, anche io l'ho chiamato per 2 anni robot, fin quando questo tizio che mi ha accettato questo lavoro, ancora che un dispositivo elettromeccanico, la stessa ditta che lo produceva lo chiamava, cioè nel senso che è una differenza importante ma sottile, no? Cioè questa macchina i pattini li muove e basta, c'è il supporto del peso, se il paziente non lavora la cinghia per un discorso di gravità lo solleva di più perché non lo fa cadere, però non adegua i pattini a quanto lui muove la gamba, hai capito? Per quello che succede con il meccanico. Il locomat invece, se il paziente muove la gamba, lui controlla le traiettorie, cioè che non ci sia un'extra rotazione, un'abduzione. Se il paziente però al terzo passo non fa, farà lui, cioè capisce che non può fare e completa il movimento deficitario, da un deficit di rotazione muscolare, tutto il passo lo lascia sempre uguale. Quindi è un po' stupido di dire la stessa cosa, però sì, esatto, non so, con dei, intendendo complessità di algoritmo tale per cui adegua la risposta in tempo reale, cioè ok, cioè, l'importante è che tu puoi mettere anche un dispositivo il più complesso possibile attraverso l'elettronica, comunque questo vedremo, no? C'è una specie di display a bordo che ti dice online, ti fa un feedback di quando scarico spostamento il paziente, a che velocità va, di tutto, no? Come se fosse un tachimetro, come la macchina. La macchina è un robot, è un dispositivo elettromeccanico la macchina. Cioè non è che adesso stanno unendo la macchina di sistemi ingegnosi tale per cui il comportamento si modifica in base a delle situazioni, no? Tipo tu sei distratto, davanti passa una persona, la Mercedes ultima classe si ferma da sola perché c'è un sonar, un ultrasuono che riconosce la persona in movimento e si ferma, ok? Però quelle sono, no? Beh, è una cosa recente, insomma, non è una cosa che si è sensore di partenza. Ok, va bene, allora procediamo un po' a vedere cosa sono. questo è un pochettino, no? Cioè, questa è la rivista Stroke. Quanto tempo parlo di questo? Sono 12 e 5. Facciamo una piccola pausa. Poi dopo ci facciamo l'altra parte. Comunque per male facciamo una o due lezioni di, come dire, background, cerchiamo di raccogliere le informazioni preparatorie. Poi facciamo una lezione sul container, una sul logomat, una sui dispositivi dell'arco superiore, mano, sulle armadie, eccetera, eccetera. E poi dopo ne facciamo una che cerchiamo di vedere, salito su a sesso, cerchiamo di vedere un pochettino come funziona il get trade, lui aspettate voi, eccetera, e cercare di familiarizzare con uno strumento che non è niente di particolare, niente di... Ragazzi, domani mattina non c'è lezione, c'è almeno il tirocinio? Il pomeriggio. Il tirocinio è possibile farlo dalle 2. Bisogna manifestare, capito? Siamo partiti. Thank you.